vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 16 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che è dedicato a quelli campagnoli che la città l'hanno vista solo in cartolina, cerca di esplorare il mondo delle grandi città, delle metropoli, delle aree metropolitane. Ora fanno quasi paura quando ce lo dicano, era meglio insomma prima il comune, la provincia, era una cosa un po' più alla nostra portata, ma abbiamo da fare gli americani, quindi le contee nuove di oggi in Italia sono le aree metropolitane, insomma non ci capiamo niente noi di campagna, pertanto per capirci qualcosa ci rivolgiamo a chi in quelle aree metropolitane ci vive. E per noi, per Radio Big World, colei, perché è una donna, che ci porta dentro alla città, quella con la C maiuscola e anche con la S maiuscola dello smog, che ecco lei che mentre noi stavamo attenti a non surriscaldare le valvole, lei già installava i microchip al silicio. Laura! Ciao, ciao a tutti, cittadini e campagnoli. E visto che insisti tanto su questo fatto che noi vi ingloberemo, sei pronto per diventare tipo Soviola? Nel senso, sarebbe una cosa anche interessante sentirci un po' per la Fiorentina, ma come sai noi in provincia siamo molto legati alle nostre squadre. In fondo ai miei nipoti o altri bambini che mi chiedono perché squadra sei, per il Montevarchi, e quelli fanno sì, ma una squadra di Serie A. No, non hai capito, sono per il Montevarchi, punto e basta. Non guardare che ora è in quarta divisione. Però naturalmente parliamo di Firenze, parliamo di una realtà sportiva e calcistica, al di là degli scherzi, importantissima, che coinvolge migliaia di persone e ha come suo tempio, come sua arena, lo stadio, l'Artemio Franchi, che è a Campo di Marte, così a cazzotto. Lo stadio di Firenze, dentro al quale non sono mai stato e non ho la più pallida idea di come sia organizzato. Laura, mi dai più o meno da capire le curve, le tribune, le gradinate come stanno a Firenze? Allora, è facile. La curva Fiesole guarda la collina di Fiesole, cioè dal lato Fiesole, ed è la curva più importante, la curva storica dove si riuniscono gli ultra. La curva Ferrovia al lato opposto, dove di solito va chi non trova posto in curva Fiesole, però insomma si è organizzata anche la curva Ferrovia con i suoi gruppi di tifo organizzato, appunto. E curva Ferrovia perché guarda la ferrovia. Esatto. Come via Bolognese e via Senese, ok. Vedi, va bene. Tutto torna. La curva Ferrovia spesso è anche desiderata dai più facinorosi perché è in contatto col Formaggino. Il Formaggino è il settore ospiti che sta fra la curva Ferrovia e la Maratona, che è la parte lunga, diciamo, dello stadio. E allora, insomma, chi vuole fare un po' di casino, vuole andare a tirare due monetine agli ospiti, ma in curva Ferrovia, insomma. Vabbè, aperta e chiusa parentesi. Dall'altro lato, quindi c'è la parte lunga, diciamo, del rettangolo è la Maratona. Opposta alla Maratona c'è la tribuna, che ha il privilegio di essere coperta. Ah, e quindi quando piove si salvano solo quelli della tribuna. La prima pecca che tutti notano nel nostro stadio è che se piove ci si bagna, a meno che tu non sia in tribuna. Guarda, non è da poco questo, perché quando vengono quegli acquazzoni tremendi, anche i tifosi più appassionati ogni tanto si perdono dei quarti d'ora di partita rifugiandosi sotto gli spalti per asciugarsi un attimo. Mi ricordo un giorno un mio amico che voleva stoicamente dimostrare che a lui l'acqua, cioè, proprio non lo disturbava. A un certo punto, al 90esimo, in un Fiorentina-Livorno dove veniva giù il mondo, era veramente bagnato. Io avevo anche le mutande da strizzare. E lui al 90esimo disse: sento una gocciolina che mi percorre la schiena. Ah, sì, fosse quella gocciolina. E quindi, primo appello da fare a Diego Della Valle, che per lui: fateci uno stadio nuovo coperto. Questa è la disposizione dello stadio: le curve e la maratona e la tribuna, che sono i lati lunghi. Non sono mai venuto allo stadio di Firenze, ma qualche libro di architettura me lo sono letto, e lo stadio di Firenze ha una forma molto particolare, e cioè la forma A di Duce, tant'è che è un monumento nazionale e non è abbattibile, pensate, un po' come la stazione di Santa Maria Novella, che ha forma di M di Mussolini. D'altra parte, Forlì storicamente era Romagna Toscana, quindi pensa un po' dove era nato quello che a un certo punto della sua vita perse i capelli. Insomma, fatto sta tutto questo discorso per dire che cosa? C'è una leggenda, e cioè che in curva a Firenze, in buona sostanza, grazie alla forma che c'ha lo stadio, si riesce a vedere molto poco, qualcuno dice quasi niente. Laura, tu che quella curva l'hai frequentata tantissimo, confermi oppure smentisci e dici: ah, meglio di lì, solo su Sky? Confermo che dalle curve si vede tre quarti di campo, e quindi molto spesso, se tu sei in ferrovia e fanno gol sotto la Fiesole, il gol lo senti, lo percepisci dal boato dei tifosi che sono dall'altra parte, che esultano, perché veramente si vedono degli omini piccini picciò, così come se tu stai in Fiesole, il gol sotto la ferrovia, bah, te li puoi immaginare e te le riguardi quando torni a casa in televisione, oppure molto spesso senti qualcuno che telefona a casa che ha il babbo davanti a Sky e fa: babbo, ma sei segnato, ma che è successo? Perché sai, io quindi, insomma, ho visto male. Ma poi soprattutto, oltre che lontano, vedi con poca prospettiva, cioè nessun tipo di prospettiva, cioè il fuorigioco non lo vedi, è impossibile. Allora, quando un tifoso protesta perché secondo lui è un fuorigioco e l'arbitro non l'ha segnalato, oppure l'ha segnalato e non era fuorigioco, ovviamente tutto perché la decisione arbitrale è stata sfavorevole alla Fiorentina, e inizia a dire: oh, arbitro, era fuorigioco. Cioè, ogni tanto mi veniva da dire: stai scherzando? Cioè, malapena si vede il colore della maglietta, se te hai percepito che era fuorigioco. Poi ovviamente mi sono sempre stata zitta, perché mai contraddire il tifoso arrabbiato. Tanto di più stanno girati verso i tifosi a cantare, altri sono occupati a accendere fumogeni o roba fumante, per cui alla fine vedere la partita è molto relativo. È un optional. Allora, quelli che stanno girati hanno proprio lo scopo di coordinare il tifo, quindi la partita, insomma, non è la priorità da seguire. Devi seguire Tizio e Caio perché devono cantare, e se non cantano te hai tutto il diritto di arrabbiarti più di quando si subisce gol. Per il resto sì, c'è un po' una varietà di, come detto, di sostanze fumogene. E sai che cosa? Mio babbo, quando io volevo assolutamente l'abbonamento allo stadio, mi disse: no, in Fiesole non ti ci mando perché gira droga, devi andare in ferrovia, come se la ferrovia, insomma, fosse esente. Sono astemi. E quindi sì, vabbè, effettivamente. Poi la famosa sicurezza, che è stata tanto declamata qualche anno fa, e che ha, cioè, il desiderio di sicurezza, ecco, che la sicurezza, il desiderio di sicurezza che ha portato a dire: rispettiamo i posti numerati. Ecco, quello, insomma, scordiamocelo, perché in curva chi prima arriva meglio alloggia. I numeri sono così scritti sull'abbonamento, ma sono non rispettati assolutamente, almeno fino a qualche anno fa, quando andavo io. Mentre invece in maratona e in tribuna ognuno c'ha il suo posto, quello sì. Però ecco, in curva ti conviene arrivare presto se vuoi un posto dove vedere almeno metà campo. Pensa te, negli stadi di Serie A c'hanno pure le curve con i posti numerati, noi ci sa dei gradoni di cemento, come si va si va. Aspetta, però qualche seggiolino è stato divelto, quindi ti siedi comunque sul gradone di cemento. D'accordo, d'accordo, perché in città c'è un modo di fare, diciamo, in guanti bianchi, ecco, ci sono degli steward a Firenze vestiti con il tight. E per entrare allo stadio serve pagare un biglietto. Ora, è chiaro, i prezzi dei biglietti della Fiorentina, abbonamenti, sono su internet, sono dappertutto. In quarta serie, per chi non lo sapesse, per un biglietto di curva si arriva a spendere 10 euro. Però, Laura, tu a Firenze, quando facevi l'abbonamento o andavi alle partite, comunque un biglietto lo compravi. E naturalmente i prezzi dei biglietti cambiano a seconda delle partite. Ora, da noi, quando c'è un derby, tanto mettono agli abbonati il pagamento del biglietto e sono sempre i soliti 10 euro, ma a Firenze cambia l'importanza delle squadre, il pubblico che fanno, e quindi cambieranno anche i prezzi. Qual è stato il prezzo più alto che hai pagato per un biglietto? Te lo devo proprio dire? 100 euro per biglietto in maratona, che in curva erano tutti esauriti. Europa League, Fiorentina Juve 0-1, quindi insomma, dopo il danno la beffa. E mi ricordo quando andai a comprarlo, che fece anche la fila tra l'altro, presi pure la multa alla macchina, quindi pensate quanto mi è costato quella partita. Il karma nero. E abbiamo anche perso, però guarda, ora ti dico, non lo rifarei perché abbiamo perso. Se avessimo vinto l'avrei spesi volentieri, perché è stata veramente un'emozione vedere lo stadio completamente esaurito, con una bella coreografia, un bel tifo. Quello che rimproverano spesso i fan ultra è che la gente non canta, no? Quindi il clima da stadio, senza molta partecipazione, insomma, non emoziona più, cosa che succede per molte partite. Invece, ecco, quando è tutto pieno e tutti partecipano, è una bella sensazione trovarsi lì nel mezzo. Ma il biglietto lo comprasti regolarmente dalla Fiorentina oppure dai bagarini fuori? No, ma che bagarini, sono una persona seria io, eh. Bagarini che ci sono però a Firenze. Non li ho mai frequentati, caro, io sai, sono di classe. Gente. Forse ci venite voi da paese, allora forse andate a importunare i bagarini e alimentate questa brutta abitudine. Gente di un certo livello. E poi chissà, se quella partita fosse stata vinta dalla Fiorentina, probabilmente il vigile non ti faceva la multa. No, me l'ha fatta prima, perché me l'ha fatta quando andai a comprare il biglietto. Quindi io ho speso in un colpo solo, prima di andare alla partita, 150 euro invece che 100. Ma figurati, insomma, il vigile probabilmente aveva la profezia, come Savonarola aveva bello visto che perdevate, quindi si era in nervoso. Chi lo sa? No, ma forse era una punizione, dice, ma sei così scema da spendere tutti questi soldi per una banale partita, guarda, ti meriti anche la multa. Allora, il vigile era addirittura un angelo, fantastico. Laura, qui da noi vige, qui in provincia, insomma, abbiamo fatto anche serie molto inferiori, quindi vige questa cosa che si arriva allo stadio un po' alla spicciolata, e quello che prima c'ha il pranzo in famiglia, poi si va a bere il grappino, poi si ferma fuori allo stadio il bicchiere di vino, insomma, fatto sta, arriva proprio a bruzzico, proprio al momento del fischio dell'arbitro, qualcuno si prende pure il lusso di arrivare 5 minuti dopo. Ma a Firenze questo non sarà possibile, i prefiltraggi, la polizia, i tornelli, e poi insomma c'è da organizzare le coreografie, c'è da mettere gli striscioni, tanti striscioni, tante coreografie. Pertanto, a che ora si arriva allo stadio, in curva, diciamo, mediamente? Allora, l'organizzazione delle coreografie è riservata a pochi professionisti, che poi non vogliono nemmeno tanta interferenza, decidono loro e zitti. Quindi quelli che organizzano la coreografia sono una minoranza e arriveranno molto presto. Se tu vai in curva devi arrivare abbastanza presto, perché ti fregano il posto. Poi dipende che posto vuoi. Allora, se vuoi stare più tranquillo e vedere leggermente meglio il campo, ti metti più in alto, decentrato, allora forse il posto lo trovi anche se arrivi una mezz'oretta prima. Se vuoi andare proprio nel bel mezzo del tifo, allora devi arrivare molto presto, se no mandi un tuo amico che ti tiene il posto, però deve essere un amico ben piazzato che è capace di cacciare qualche altro tifoso ultra che insomma non, non accetta che certi posti siano riservati, no? Quando uno dice, questo è occupato, ah sì, il tuo amico, allora se non viene lo piglio io. Poi, insomma, dipende dalla mole di questo, che gli dici, va bene, no? Molto spesso. E quindi in curva è così, deve arrivare abbastanza presto. Io mi ricordo le ultime volte che andavo allo stadio con mio fratello, che c'era passata un po' la passione, mangiavamo, pranzavamo con calma, arrivavamo veramente all'ultimo momento. E avevamo però un gruppettino di amici che ci teneva al posto, però questi venivano da Calenzano, no? E dicevo, ma si arrabbiamo, dicevo, ma come, voi che venite da Firenze, cioè ti fate tenere il posto da noi? Sì, vabbè. E quindi ogni volta ce lo rinfacciavano. Se invece, vabbè, poi quando sono state introdotte tutte le norme di filtraggio, insomma, tornelli, eccetera, ovviamente devi partire un po' prima, però se hai il posto in maratona o in tribuna, quindi posto numerato, puoi andare con calma, che insomma nessuno te lo frega al posto. D'accordo. E ci hai parlato di una grande partita, Fiorentina-Juventus di Europa League, ci hai parlato quindi di un evento che ha riempito lo stadio fino all'orlo, tanto che si era disposti a spendere cifre folli pur di avere un biglietto. Che sensazione ti ha dato lo stadio strapieno e tutte queste persone che alla fine in gran parte di loro gridavano in favore della Fiorentina? Bella, bella sensazione. Sono tornata un po' ai vecchi tempi, quelli di Battistuta e Rui Costa, in cui veramente la partecipazione era forte e le emozioni erano tante. Poi non è tanto la partita in sé a emozionare, ma tutto il contorno. Mi ricordo, perché come tu ben sai, noi siamo state anche Florenzia Viola in Serie C2, no? Allora, abbiamo pure giocato insieme, i Montevarchini sono venuti al Formaggino e Montevarchi vinse a Firenze. La Fiorentina aveva vinto a Montevarchi, comunque. E invece io mi ricordo di quell'anno lì, Gubbio, allora partimmo, andai in trasferta col Pullman, quindi per dire, le emozioni, no, sono a volte... sono forti anche a prescindere dal valore della partita. A Gubbio, a te pensa già che 16.000 abbonati in Serie C2 era veramente un record storico. A Gubbio, per l'appunto, quel marzo iniziò a nevicare fortissimamente. Allora il campo era impraticabile. I tifosi, io forse, insomma, devo ammettere che ero un po' stanca per farla anch'io, non era un lavoro molto femminile, però i tifosi lì si misero con la pala a spalare la neve, perché altrimenti non si sarebbe giocata la partita. Ecco, dai, fra le emozioni legate alla Fiorentina c'è anche questa, la partecipazione. Abbiamo vissuto una storia simile, Montevarchi fallito e radiato e che è stato costretto a ripartire con un altro nome, ma non dalla quarta serie, ma dalla seconda categoria, e pur in campi letteralmente di rapi, tanta gente in proporzione. Firenze ha quasi 500.000 di abitanti, Montevarchi ne ha 25.000, però in tantissimi, anche 1.000 a volte, seguivano la squadra. Quindi questa cosa probabilmente ce l'abbiamo un po' in comune con voi. Una cosa che non abbiamo in comune, per il numero ovviamente, è la curva e la quantità di persone che ci stanno e che ci vanno regolarmente. Tuttavia ogni curva, tanto quella di Montevarchi nel piccolissimo come quella di Firenze nel grande, come quella del Bayern Monaco nel grandissimo, c'è chi canta e chi non canta. Tuttavia in certi stadi le cose non vanno così male. Per esempio, ho partecipato alla partita Parma-Palermo, non che giocavo io, ma insomma ero in curva, ospite di quelli del Parma. Noi a Montevarchi, insomma, è una cosa complicata, siamo piccolini ma sfruzzichini, siamo cemellati con l'Empoli, abbiamo un'amicizia col Parma, insomma ero in curva con loro, e a un certo punto la curva, i capi ultra hanno fatto alzare la tribuna e la tribuna ha fatto un coro insieme alla curva, è stato bellissimo per certi versi. Questa cosa è tipica anche di Firenze, questa cosa succede anche a Firenze? Sì, quando la curva inizia con il coro, tutti in piedi, e ok, allora tutto lo stadio si deve alzare in piedi. Molti rimangono seduti, diciamoci la verità. Dipende dal momento della partita, se è emozionante o no. Dopo l'invito tutti in piedi, il coro successivo viene cantato più o meno da tutto lo stadio, così funziona. Però siccome molto spesso la maratona non partecipa, Allora parte il coro Maratona Bianconera, perché la curva offende la Maratona. Oppure c'è anche un altro coro, no? E chi non canta è un... Chi non canta resti a casa, cosa viene a fare qua? Quindi ora te l'ho fatta in versione censurata. D'accordo. E... Quindi l'invito a casa, oltre a sostenere la Fiorentina, ci sono cori che invitano più o meno educatamente i tifosi a cantare. E la risposta della gradinata, dello stadio, qual è a questi inviti? Senti, te l'ho detto, se magari la partita è bella e viva, si partecipa. Però se la partita ha preso una piega un po' sonnolenta, se ne fregano e non li considerano i poveri capiltra. Ecco, funziona così. D'accordo, quindi ogni cosa dipende dal risultato e non è fede a prescindere. No, però dipende, perché c'è il gruppo, la parte centrale della curva Fiesole che canta sempre. Tanto che io mi ricordo c'era un personaggio, insomma, bello massiccio, che prendeva per il collo chi osava saltare un coro, chi non cantava. Cioè, quindi se tu vuoi andare in curva Fiesole nella parte centrale, quella più accesa, stai attento. Prima di tutto, ecco, devi assolutamente cantare ogni coro. Secondo, sperare di non avere vicino certi elementi. Che a Firenze il calcio storico, insomma, menano. D'accordo. La partita di Europa League, Fiorentina, Juventus, bla bla bla, effettivamente è una partita eccezionale, però il derby con la Juventus, quello di campionato, quello di Coppa Italia, se capita, insomma, sono le partite più probabilmente sentite a Firenze, forse anche più dei derby toscani. E mi sa che tu di derby con la Juve ne hai visti a Firenze perlomeno più di uno. Ce lo racconti, come è lo stadio, com'è Firenze quel giorno lì? Bellissimo, guarda, l'emozione sale proprio, è tangibile sia prima che dopo se vinci, altrimenti prima c'è l'emozione e dopo c'è la delusione. Vabbè, ti voglio raccontare un 3-0, guarda, non mi ricordo che anno era, ma tanti anni fa, e segnò il terzo gol Robbiati, su punizione, uscì dallo stadio tutta contenta, incontrai un mio amico, un nostro amico comune, e mi salutò e mi disse, ah, meglio questa di una, e anche vi censuriamo, ecco, insomma, no, si gode, dai, si gode se si vince con la Juve, siamo anche troppo fossilizzati su questa partita, come se fosse l'unica, come se fosse la partita della vita, ma poi alla fine sono 3 punti lo stesso, però insomma, sì, effettivamente è la partita, non è il derby con la Juve, è la partita, quella con la L maiuscola, la P maiuscola. Un po' come fanno i senesi, che se non vincono il palio godono se perde la loro nemica, una roba del genere. Sì, si gode anche quando la Juve perde, ecco. E oltre a quella partita, la Fiorentina, Europa League, la Juventus, che era una coppa, ragazzi, incredibile, ma vero, era una coppa europea, una finale di coppa europea. La Fiorentina, che mi ricordo io, in finale di Coppa Europea era con Real Madrid, ma negli anni 50, giocava uno di Montevarchi, tra l'altro faceva il difensore, ma altre partite di Coppa con squadre più propriamente straniere, ora è vero, insomma, i piemontesi sono mezzi francesi, ma roba più straniera, il Panathinaikos, ti dirò di più, allora se ne cito due, una Fiorentina-Barcellona, che io ero a vederla allo stadio Artemio Franchi, e un tale Mauro Bressan, per lo più sconosciuto, fece una rovesciata fantastica, che in confronto con le di Cristiano Ronaldo sono semplici, non lo sa neanche lui come ha fatto, però questa, insomma, ce la ricordiamo tutti. E poi ti parlo sempre di diversi anni fa, perché insomma una ventina d'anni fa, perché il mio periodo di tifosa è insomma, si risale a quell'epoca. Ecco, una bellissima partita di Coppa che ho visto era la Coppa delle Coppe, che poi dopo è stata tolta, la Coppa delle Coppe, che veniva giocata da chi aveva vinto la Coppa Italia, e vide la Fiorentina recarsi in quel di Praga, a Sparta Praga, contro lo Sparta Praga. C'era uno stadio, era bellino, molto, mi sembra piccolo, però era quasi quadrato, ma era veramente un gioiellino. E per l'appunto quella partita, vita capitava a novembre in un ponte, cioè tipo non so se era proprio il 2 novembre o giù di lì, quindi insomma veniva bene andare a Praga perché con un giorno o due di ferie ti facevi proprio una bella vacanzina. Allora fu bellissimo andare perché trovavi l'ortolano di San Frediano sul ponte, come si chiama, San Carlo Bridge, il ponte di Praga, uh-huh. Oppure nella piazza dell'orologio, trovavi e tutti, oh ciao, era veramente Praga invasa da sciarpe viola, anche prima della partita fu un pomeriggio fantastico, cioè incontrare il tuo vicino di casa a Praga è un'emozione impagabile, guarda, tantissime persone si sono incontrate, salutate, tutte con la sciarpa viola, foto, bellina. Poi anche lì signor Robbiati, guarda un po', uno a uno finì. E fu molto bella. Portavi bene a Robbiati. Sì, è vero. Hai raccontato di sciarpe viola che invadevano Praga, una specie di primavera di Praga in salsa fiorentina. Sì. Ma... quando sono gli altri che invadono Firenze con sciarpe di vari colori e magari di squadre esagitate, insomma, a Roma gli hanno spaccato le fontane, da quell'altra parte gli hanno ribaltato il centro storico. Come vive Firenze l'invasione dei tifosi ospiti? Quelli internazionali, ai noi, sono poco frequenti perché insomma la nostra partecipazione alle coppe ultimamente è scarsa, però ecco, quasi tutti gli stranieri che vengono sono ubriaconi, cioè per definizione, dagli inglesi ai tedeschi, quindi ecco, se vai in centro vedi qualche rissa, vedi qualche ubriaco in più pieno di polizia però sirene. Ci si sta attenti, sì. E poi se vengono squadre italiane, allora ci sono forse tre categorie, le squadre con cui siamo gemellati, che sono accolte bene, allora insomma magari il tifoso del Torino, il tifoso della Fiorentina vanno a mangiare una bella bistecca prima della partita e peace and love, ci vogliamo tutti bene, e quelli del Verona lo stesso. Poi ci sono quelli che non li considera più o meno nessuno, come boh, che ne so, se viene il tifoso del Chievo Verona, vabbè, può anche camminare indisturbato per la città. E poi ci sono tutte le squadre, le grandi, no? Le grandi che sono tutte antipatiche, perché insomma non puoi andare a mangiare con uno con la sciarpa giallo-rossa prima di Fiorentina-Roma, insomma non sta bene, anche se c'hai un amico che è romanista non lo dici e lo tieni nascosto, e vabbè, fa stare zitto più che altro. Poi vedi, quando arriva il pullman della squadra ospite, ecco, l'accoglienza quella è sempre... Nel migliore dei casi fischi e insulti, vabbè, insomma, sperando che non voli qualche oggetto. Quindi i fiorentini sono intanto abituati a avere tifosi ospiti anche in grosso numero in città e in qualche modo sono abituati a non farci caso e a non farsi impelagare in risse o situazioni tipo bloccati con la macchina o sommosse di piazza, una roba del genere. Ma sì, dai. E allora noi che qui in provincia sì di squadre ospiti ne abbiamo, ma in quarta serie almeno nel girone del centro Italia le tifoserie sono piuttosto scarse, ringraziamo Laura per averci fatto capire come invece in città, in una grande città che ha una squadra in Serie A e che ha una squadra gloriosa comunque e seguitissima e amatissima non solo in città ma anche in provincia, tant'è che ci fu un periodo in cui i capi della curva Fiesole erano appunto del Valdarno. Ringraziamo Laura per averci fatto da guida. Sei pronto per venire in Fiesole? Beh, mio nipote mi ha chiesto se lo accompagno a vedere la Fiorentina, pertanto prima o poi sarò all'Artemio Franchi. Perfetto, vedi, allora che la mia lezioncina ti sarà utile, mi fa piacere. Spero anche ai radioascoltatori. D'accordo, state attenti alle scarpe perché la marca sbagliata e vi sgamano e magari vi menano. Ok, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie a Radio Big World, grazie a Laura naturalmente e a Firenze, che Firenze è a Firenze, come scriveva Nuti nei titoli di coda, e alla prossima fiorentinata.